L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 7 minuti dopo le 12 in diretta Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa delle storie, l'Europa delle persone. Radio24.it, il nostro sito da dove poter poi riascoltare il podcast e trovare tutti i contributi extra. L'altra Europa è radio24.it, invece se volete contattare la nostra redazione, ancora i nostri social Twitter e Facebook, l'account è il mio personale chiocciola Federico Taddia, oppure Euronet Plus R24. Date tutte le coordinate, possiamo partire. Ogni settimana tante voci, tanti viaggi, e oggi si parte a piedi, destinazione Bruxelles. A million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time that I. km, questa è la distanza che collega Roma da Bruxelles, distanza che verrà coperta a piedi in un viaggio nel cuore dell'Europa, viaggio che intraprenderà Marco Saverio Loperfido, guida dell'Associazione Italiana Guide Ambientali e Escursionistiche del Lazio, che ha presentato in questi giorni la sua idea, lui fondatore di Amappa l'Italia, che diventerà una sorta di, anche credo, Amappa l'Europa. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie. Grazie a te. Buongiorno. Allora, come mai? Cosa c'è alla base di questa idea? Tanta strada, Sì, anche perché noi, io, Marina e Bricco, questa è, diciamo, il gruppo, la spedizione, Bricco è il nostro cane, non faremo la strada più veloce, vogliamo attraversare l'Europa prendendocela con calma e prendendocela larga. Quindi cercheremo nuove vie che vanno da un paese all'altro, sentieri, strade secondarie, per mapparle, fare reportage fotografici, incontrare persone e per arrivare a Bruxelles, per sentirci noi in primis più europei e vedere questo continente, almeno una parte di questo continente spettacolare, millimetricamente. Marco, noi ci chiamiamo l'altra Europa, quella che tu andrai a mappare sarà davvero un'altra Europa? Io spero di incontrarla. Nei viaggi precedenti che ho fatto qui in Italia mi sono accorto che esiste un'altra Italia a piedi, no? Andando in questi paesi magari dell'Appennino poco popolati, dove le associazioni lottano per, appunto, per il loro territorio, mi sono accorto che c'è tanta gente valida, quindi se tanto mi dà tanto, troverò anche un'altra Europa. Il tuo obiettivo è quello di entrare anche al Parlamento europeo, lì sarai accolto al tuo arrivo, avrai anche un messaggio politico quindi da portare? In realtà politico lo diventerà a posteriori, ma non da parte nostra. Politico è tutto ciò che è politico nel senso più elevato, lo è sicuramente, perché noi incontreremo appunto le associazioni, le persone, i cittadini, e ci faremo dare le loro esperienze concrete in quella che abbiamo chiamato la lettera in cammino. Questa lettera vuole essere appunto un resoconto delle esperienze concrete che le persone che vivono i territori in prima persona hanno fatto, però noi non porteremo una proposta sistematica, una proposta organizzata, porteremo le voci di chi abbiamo incontrato, come se noi fossimo un piccolo torrente che scorre piano piano verso Bruxelles, prende questi detriti o queste perle, questi pezzi d'oro che si trovano lungo i ruscelli e li porteremo lì. Poi sarà appunto, e questa la promessa di Bruxelles, dove abbiamo dei contatti, saranno loro che dovranno leggere e capire cos'è l'Europa più profonda. Quindi 2.400 chilometri, quasi 180 città toccate in un itinerario che immagino tu abbia già disegnato sulla carta, ma che sarà poi suscettibile anche di varianti e di deviazioni a seconda degli incontri che farai. Incontri anche questi programmati o la strada ti porta inevitabilmente appunto a nuovi incontri, nuovi incroci, nuove contaminazioni? Sì, questo sarà fondamentale. Un giusto equilibrio però tra programmazione, ne abbiamo bisogno di dormire in ogni nuovo paese che incontreremo, e quindi anche appunto di fare questo lavoro sociale, non tanto il lavoro di ricerca del sé, o almeno una ricerca del sé che nel cammino è implicita attraverso però gli sguardi e gli incontri con gli altri e le altre associazioni. Abbiamo in realtà un programma molto ben definito fino al confine con l'Italia e l'Austria. Lo potete trovare sul sito e vi potete addirittura unire alle nostre passeggiate. Hai detto bene, presentandomi sono una guida ambientale, possiamo anche camminare insieme e quindi è anche un modo proprio per conoscersi camminando. Ci sono tutte le tappe, giorno per giorno, ovviamente tramite social comunicheremo eventuali modifiche, perché tra un temporale o un qualsiasi imprevisto che in 6 mesi di cammino sono più che certo che accadranno, dobbiamo comunque modificare certo. Il nostro viaggio. Quindi sarà possibile camminare con voi sia realmente che virtualmente. A mappalitalia.it credo sia sempre il sito di riferimento, giusto? Per seguire il viaggio? Sì, perfetto. Partenza il 1 maggio da Chia e arrivo previsto 6 mesi dopo a Bruxelles, quindi insomma c'è tempo per accompagnare Marco, la futura moglie Marina e il cane Bricco. Lui sa il cane Bricco cosa lo aspetta? No, okay. Lui non lo sa, penserà che è una delle solite passeggiate giornaliere e invece faremo parecchi chilometri. Sarà giornaliera, ma dopo ogni giornata ce ne sarà un'altra. Grazie davvero, ciao Marco, poi ci ritroveremo sicuramente durante il cammino per andare a scoprire con te l'Europa che stai toccando. Ciao e buon sabato. Grazie anche a voi. Noi ci fermiamo per il traffico, primo in Europostit, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Aperto il nuovo bando EPSO per amministratori all'Unione Europea. Siete alla ricerca di un impiego nell'ambito delle istituzioni europee? EPSO, Ufficio Europeo per la Selezione del Personale, ha aperto un nuovo bando dedicato ai laureati interessati a uno dei 100 posti disponibili per nuovi amministratori delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione Europea. Le sedi di lavoro saranno Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo. I candidati dovranno aver conseguito un titolo di laurea triennale, essere cittadini europei e padroneggiare almeno 2 delle lingue ufficiali dell'Unione. Tutte le offerte e le modalità di candidatura sono sul sito epso.europa.eu. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta... L'altra Europa. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. D'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà, e allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Camminando 2017, il titolo del tour che vede protagonista Angelo Branduardi insieme a Maurizio Fabrizio. 4 date italiane, andate sold out, un grande successo, e adesso questo tour è in giro per l'Europa. E camminando ci sembra un bel messaggio anche per questa Europa in perenne cammino. Ci colleghiamo con Liegi, se non erro, dove proprio stasera ci sarà il concerto tenuto da Angelo Branduardi. Buongiorno Branduardi, benvenuto all'altra Europa. Buongiorno a voi tutti. Sì, sono a Liegi, in Belgio, nella parte francofona del Belgio. come sta andando questo viaggio attraverso l'Europa? Sta andando molto bene. Io le tournée le ho chiamate un po' tutte camminando, perché fortunatamente non c'è un traguardo, per cui il bello è la ricerca. E noi facciamo le nostre tournée ogni anno, anno e mezzo, che comprendono un po' tutta l'Europa, insomma, trovandoci sempre bene, devo dire. Anche tournée particolari, tournée diverse, modi diversi di ricreare le canzoni, insomma, c'è parecchia varietà in quello che facciamo. Da sempre diciamo che la cultura... Parlo al plurale, non perché sia plurale maiestatis, ma parlo noi del gruppo. Diciamo sempre che la cultura, la contaminazione culturale, principalmente una delle grandi colonne portanti di questa Europa. Lei ci crede nell'Europa? Dammi pure del tu. Sì, io ci credo, però non come è messo adesso. Okay. Nel senso che i padri fondatori, di cui si è onorato il 60° anniversario pochi giorni fa, avevano previsto ben altro, avevano previsto un'unione politica, un'unione culturale, mentre invece effettivamente è vero che per il momento si tratta di un'Europa finanziaria basata sulle finanze, che non sono denaro vero, che non sono lavoro vero, ma che sono soltanto numeri, insomma, tutto ciò. Non può essere solo questo l'Europa, l'Europa è ben altro, certo. Ha un passato di centinaia, se non migliaia di anni, di belle e brutte cose, comunque insomma è tutta mai unita dal punto di vista culturale, come dicevi giustamente tu. È un peccato vederla ridotta solo a quello, alla lunghezza dei ciprioli, come devono essere le patate, devi fare meno latte, insomma sono tutte cose queste qui che non portano a niente. L'unione sarebbe interessante laddove fosse politica e culturale, che lo è, che c'è, però è sotto, mm-hmm, è sotto busto, insomma. Certo. E questo è il mio pensiero sull'Europa. Assolutamente. Sai, mi stavo chiedendo invece, mentre parlavi, tu da sempre fai tantissima ricerca musicale, andando proprio anche alle origini, no? delle musiche, del suono, delle culture, sì, popolari. C'era più trasmissione una volta o c'è più adesso? Nel senso che adesso sembra tutto molto più connesso, molto più veloce, molto più contaminato, riutilizzo ancora questa parola. È vero? Ma probabilmente sì, non saprei dire se era meglio quando si stava peggio, ma sì, è tutto molto più veloce. Ci sono anche meno chance, questo parlo di giovani, nel senso che la discografia ha fatto la fine che ha fatto. Sì. E quindi adesso per un giovane che inizia ci sono due chance, perso la prima e la seconda è abbastanza complicato riuscire in mezzo, insomma. Sì, ci sono delle cose diverse, c'è internet, c'è YouTube, eccetera, eccetera, ma non è facile. Mm-hmm. Parlo per i nuovi talenti, per chi inizia, per chi vuole andare avanti. Ci sono solo i talent show che insomma lasciano un po' il tempo che trovano, anche se sono belli da divertenti da seguire, ma non portano un po' da nessuna parte. Leggevo in qualche intervista che in questo periodo si è molto attratto dall'idea del meno c'è più c'è, è una scelta sì, solo musicale? Sì, lo dico sì, no, cerchiamo di togliere invece di mettere, cioè facciamo un po' il contrario di quello che si fa normalmente, cioè la musica respira di più nel momento in cui togli delle cose, e tutti diciamo si aspettano un presente durante i tuoi concerti di tipo anche al limite mistico, cioè astratto, ecco la parola giusta, non mistico, e questo il minimalismo porta all'astrazione, per cui è quello che ci interessa. Cioè che ci sia in realtà una forma espressiva che viene valutata e non solo subita. Non so se il discorso è chiaro. Certo. AngeloBranduardi.it, questo è il sito per conoscere anche l'intero tour, non solo quello europeo ma anche quello italiano, perché poi ci sono date di nuovo in Italia dal 28 aprile, Torino, poi Roma, Lucca, Bordighera, L'Aquila fino ad agosto. Angelo, un'ultima domanda. Questa sera salirai sul palco di Liegi. E cosa succede? Qual è il momento in cui capisci di aver catturato il pubblico? C'è una canzone particolare? C'è un suono particolare? C'è un momento particolare? Non proprio, diciamo che è concepita, la cosiddetta scaletta è concepita in un modo che bene o male come un'onda, attraversa momenti di grande tensione ritmica, poi momenti invece di grande relax ritmico, e quindi c'è musica armonica e musica meno armonica. Diciamo che io catturo il pubblico quando sento che le emozioni non sono solo le loro, ma sono anche le mie. Ecco, mi sembra. E allora questo vuol dire che si è creato il cerchio e che la cosa funziona. Grazie davvero, Angelo. Buon tour, buon camminando. Grazie per essere stato con noi. Ciao, buona giornata. Ciao, arrivederci. Ciao a tutti. Europost-it. Premio giornalistico Lorenzo Natali. Attenzione, giornalisti e aspiranti giornalisti. La Commissione europea ha indetto il premio Lorenzo Natali 2017, che mira a ricompensare i migliori lavori giornalistici che trattano i temi legati alla democrazia, allo sviluppo e più in particolare all'eliminazione della povertà. Hashtag Tell My Story. Questo l'hashtag dell'edizione 2017 che consegnerà premi in denaro del valore di 5.000 euro a giornalisti dilettanti e professionisti provenienti da diverse aree geografiche. Oltre al premio tradizionale, quest'anno sarà assegnato un premio speciale per la promozione della libertà di religione e di credo al di fuori dell'Unione Europea. Per partecipare, visitate la pagina ufficiale del premio giornalistico Lorenzo Natali, ec.europa.eu/europeaid/INP. Across an ancient way into the dark. It's a cold. Et Federico II, il Sud Italia per l'Europa, questo è il titolo di una bella giornata che si è tenuta all'Università Federico II per mettere al centro appunto l'IRC in occasione del 10° anniversario che più volte abbiamo celebrato qui all'Altra Europa, una giornata di studi, di analisi, di confronto per vedere l'impatto di questi fondi che animano ricercatori e gruppi di ricerca con forte impatto quindi nei singoli atenei, con un forte indotto intellettuale. Tanti protagonisti in questa giornata, tra di loro Maria Chiara Scapaticcio dell'Università di Napoli Federico II, trentenne, ha vinto un IRC legata allo studio della lingua e della letteratura latina, quindi un progetto anche che si differenzia. Di solito gli IRC vengono abbinati anche per errore, insomma, progetti prettamente legati alle scienze pure, invece in questo caso si è in un altro ambito. Diamo il benvenuto a Maria Chiara Scapaticcio. Ciao Maria Chiara. Buongiorno Federico e ti ringrazio. Grazie a te. In effetti è vero, quando si parla di innovazione scientifica e di progetti, l'immagine immediata che viene in mente è quella di Equipe col camice. È vero, provette, microscopi, invece in questo caso ci sono i papiri, vero? In questo caso sono i papiri, ugualmente usiamo i microscopi. Perché facciamo esame diretto di questo materiale. Nel caso del mio progetto però il focus è su quello della circolazione del latino all'interno delle aree eccentriche dell'impero. Il progetto si chiama soprattutto in Oriente. Platinum, se non erro, giusto? Sì, il progetto si chiama Platinum. Io direi volentieri Platinum, ma non si può dire secondo le regole dell'accentuazione della lingua latina, perché si tratta appunto di un progetto che cerca di mettere insieme lo studio della lingua a partire dal suo contesto più materiale. Quindi prendiamo i libri così come li ebbe qualcuno prima di noi tra le sue mani originariamente, li ristudiamo in modo diretto. Maria Chiara, anche testi abbastanza estimi, esatto, provenienti dalle scuole. Come si vince un IRC di questo tipo? Cioè, qual è stata la tua intuizione? Qual è stato il percorso che hai fatto per arrivare appunto alla partecipazione al bando? Io in realtà ho partecipato all'IRC in un momento di disperazione, nel senso che ero precaria, sì. Una precaria della ricerca universitaria, non soltanto italiana ma europea, perché ho fatto una serie di concorsi anche all'estero, ho vissuto, ho lavorato all'estero tra Belgio e Francia, e con i miei concorsi in scadenza avevo deciso di cominciare a mettere su un'idea che poi è un'idea che porto avanti da quando ero studentessa e che quindi insomma mi permetteva di, certo, di provare a materializzare con un'equipe intera un lavoro che avevo in mente. Mm-hmm. Cercare di rendere più un'idea, abbastanza far uscire dal solipsismo la mia idea di studiare questo latino anche quotidiano. Certo. E c'era diffidenza? E... c'era diffidenza attorno a te, nel senso, appunto, perché quello che dicevamo prima, no? Certamente agli IRC si pensa in ambito prettamente scientifico. Assolutamente. Allora, io, scusami Federico, ma io sento abbastanza male, sento un eco, perdonami se niente. Lo dico. Ok. Allora, sì, in realtà il mio è un campo umanistico e in realtà credo sono l'unica latinista ad avere un progetto IRC in Italia. Mm-hmm. Era l'unico modo per provare a sperimentare anche un'idea che non ha detto che potesse portare risultati. Pensare al latino significa spesso pensare alle emozioni, significa pensare a Virgilio, Ovidio, Orazio, Tacito. Noi studiamo la trasmissione di questi testi, rompiamo un po' il confine tra gli autori e le versioni. Certo. Cerchiamo di andare direttamente alle testimonianze dirette. Maria Chiara, la domanda che solitamente faccio agli scienziati, sì, e dottorandi che appunto che vincono l'IRC è una domanda molto diretta ma molto semplice: ti ha cambiato la vita? La risposta è sì. Sì. Sono uscita personalmente dal precariato e siccome in Italia c'è la possibilità di avere accesso ai ruoli di professore per chiamata diretta, nel momento in cui si è vincitori di un IRC, il mio ateneo è stato ben contento di garantirmi questo passaggio e attualmente sono professore associato. Cambiato la vita in questo senso molto materiale, sì, ma anche e soprattutto nella mia ricerca, nel senso che è stato un incentivo a continuare a credere in quello che facevo un po' in sordina da sola. E finalmente un'equipe di lavoro che mi dà una mano e soprattutto crede, sta cominciando a credere in un lavoro che insomma può essere importante per più di uno. Platinum, dimmi scusa. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Sì, prego. L'IRC mi ha permesso anche di tornare in Italia. Mm-hmm. E credo che spesso, oltre che delle ragioni di chi resta fuori d'Italia, bisogna interrogarsi anche su quelle di chi torna in Italia. Tornare in Italia non vuol dire spesso associarsi ad un regime culturale, a un sistema. Spesso può anche significare volerlo cambiare ed è quello che vorrei. Grazie davvero Maria Chiara Scapaticcio. Platinum, liniettairc.it, il sito per conoscere nel dettaglio il progetto. In bocca al lupo, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie. Ciao Maria Chiara, ciao, grazie. Grazie mille, ciao, buona giornata, grazie. Ci fermiamo alla pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. L'altra Europa. So many parts. réfléchis longtemps ce soir. À travers l'écriture de cette chanson, j'apprends la langue des moments. Du même son que Phoenix joue avec Zeus, maison familiale et père heureux. Qui a dit nous l'on. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa, l'Europa delle storie, l'Europa delle persone, l'Europa delle opportunità. E quello che è un po' il nostro sottotitolo sembra anche la migliore delle presentazioni per il progetto di cui andiamo a parlare ora. Un progetto che è stato presentato il 31 marzo a oltre 200 giovani delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo, ma progetto che verrà lanciato ufficialmente a ridosso della festa dell'Europa. Sarà online dal 9 maggio, un museo virtuale, una casa virtuale, una casa della storia europea. myeuropeanhistory.app.eu, questo è il sito di questo viaggio. Vuole essere un viaggio in grado di raccogliere storie, testimonianze, suggestioni, dove tutti potranno portare, inserire i loro contributi, il loro legame con l'Europa. Ne parliamo con il vicepresidente del Parlamento europeo, che credo tanto creda in questo progetto. Diamo il benvenuto a Davide Sassoli. Buongiorno Sassoli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Una casa virtuale per un'Europa reale? Beh, abbiamo da tanto tempo, il Parlamento europeo aveva in mente, diciamo, di tirar su un museo per raccontare la storia di questa straordinaria avventura che nasce da due conflitti mondiali che tanti paesi che sono sempre stati in conflitto fra loro per 60 anni conservare, mantenere e investire sulla pace. E questo museo nascerà a Bruxelles, è stato finanziato dal Parlamento europeo, sarà una meta sicuramente per tutti i visitatori del Parlamento, conterrà, diciamo, la memoria della nostra storia. Nello stesso tempo abbiamo lanciato un'iniziativa che è quella di far raccontare a ciascun cittadino che cos'è l'Europa per lui, che cosa vuole significare, quali sono le sue aspettative, come l'ha incontrata, qual è stata l'Europa utile o quella meno utile che ha segnato la sua vita. Ecco, io credo che questo sia molto importante, anche perché con i trattati di Roma, con le celebrazioni che si sono svolte a Roma l'altra settimana, in realtà noi abbiamo necessità di voltare pagina. C'è un nuovo ciclo, che è quello dell'Europa proprio dei cittadini, dall'Europa degli stati all'Europa dei cittadini. Io credo che questa sia la cavalcata di questo secolo. Certo, anche perché sembra che insomma sia quasi più facile guardare all'indietro piuttosto che in avanti quando si pensa all'Europa, no? Cioè, i 60 è un po' il rischio. Però se adesso ci guardiamo un attimo intorno, capiamo quanto abbiamo bisogno invece, certo, di conservarla e non solo di investire, no? Guardiamo ai venti di guerra che si sprigionano ai nostri confini, alle tensioni internazionali, alle grandi questioni che pone la globalizzazione. Senza l'Europa saremo tutti più deboli. E una cosa importante che è stata fatta e forse non troppo sottolineata è che nella Carta di Roma, che è stata firmata da 27 paesi, c'è il concetto della indissolubilità dell'Europa, proprio magari in un momento anche critico per l'Europa, in cui il grande paese ci lascia. Però gli altri 27 hanno stabilito questo, che c'è un'indissolubilità. Poi si discute, si litiga, ci saranno sicuramente sempre polemiche fra tutti, ma questa è la democrazia e vogliamo un'Europa democratica, non vogliamo un'Europa che non discuta. Assolutamente. Questo museo quindi vuole incentivare anche riflessioni personali, no? Quanta Europa c'è in te, quando l'hai incontrata, quando l'hai conosciuta, quindi portare queste testimonianze. Sarà un museo fisico, perché ci sarà un percorso, tra l'altro una bellissima palazzina lì a Bruxelles nel Parco Solvay, e quindi questo ci darà lustro, diciamo, a questa iniziativa, tra l'altro con un comitato scientifico di tutto rispetto, con grandi studiosi, politici, personalità, e poi nello stesso tempo dare spazio alla possibilità dei cittadini di interloquire, di raccontare la propria Europa, raccontare anche il proprio sogno europeo e raccontare anche l'Europa che tu hai incontrato e che ti ha fatto male, perché naturalmente molte volte Abbiamo visto anche in questi ultimi periodi l'Europa non ha sempre accompagnato spiriti di solidarietà, anzi in alcuni casi ha accentuato le divisioni. Pensiamo all'immigrazione, alla questione della Grecia, che finalmente è un po' superata, ma naturalmente è ancora dolorosa. L'Europa può essere tante cose, però certamente è una opportunità sulla quale non possiamo fare a meno. E oggi il ritorno dei nazionalismi, perché quando diciamo i populismi, in realtà lì si nasconde uno spirito nazionalista, che è uno dei virus che ha sempre provocato sconquassi nella scena europea, e su questo io credo che la riflessione e la partecipazione dei cittadini possano superare questi spiriti così egoisti. Certo. Sassoli, ma la cultura è ancora una priorità invece per l'Europa? Perché nelle varie agende, sto pensando anche alle priorità di Juncker, la parola cultura è sempre messa in secondo piano, non è un autogol? Però in questo momento devo dire che è vero che l'agenda Juncker non ne parla tanto, però gli interventi delle istituzioni nel campo della cultura sono molto importanti, anzi c'è stato un rifinanziamento di tanti progetti. Pensiamo soltanto anche alla battaglia che è stata fatta negli anni scorsi per continuare nell'esperienza dell'Erasmus, che alcuni volevano far terminare, che invece il Parlamento non solo ha rilanciato ma ha potenziato. Pensiamo per esempio all'Erasmus per gli imprenditori, all'Erasmus che c'è per esempio per i paesi che non sono europei e con i quali noi dobbiamo dialogare. Pensiamo ai paesi africani, se non creiamo collegamenti con loro staremo sempre diciamo guardinghi nei nostri rapporti. Invece dobbiamo pensare che l'integrazione, il sviluppo di tanti altri dipende anche da noi, è un nostro investimento. Grazie davvero Davide Sassoli, ci ritroveremo buona sicuramente domenica. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Adesso noi ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Mostra un'Europa sempre più unita. A tutti gli appassionati di storia europea. A Bologna, nella Scuola di Scienze Politiche dell'Alma Mater, ha inaugurato la mostra Un'Europa sempre più unita. La rassegna racconta 60 anni di storia del nostro continente attraverso documenti, immagini e testimonianze provenienti dagli archivi storici dell'Unione Europea. Un'Europa sempre più unita sarà visitabile a Bologna fino al 27 aprile, dopodiché sarà trasferita in tante altre università del mondo, da Siena a Helsinki, fino a Shanghai e Kuala Lumpur. Tutte le informazioni nella sezione eventi del sito politicheeuropee.it. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta L'altra Europa. Now I see, sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. It is obvious that you're trying, dubious, stop or you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? Are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I'm mine, devouring you, he said. Although not clear. La storia è fatta da piccole storie, lo abbiamo scoperto tante volte qui all'Europa, che anche la storia dell'Europa è fatta da tanti frammenti di storie anche spesso poco note, storie anche di 10, 20, 50 anni fa, che però poi ci dicono tanto dell'Europa che siamo oggi. E rientra in questo ambito il bel romanzo di Caterina Soffici, Nessuno può fermarmi. Abbiamo già conosciuto Caterina, giornalista e scrittrice, è stata ospite anche qui all'Altra Europa, scusate, per il libro Italia Yes, Italia No. Lei è nata a Firenze ma vive a Londra e appunto è autrice adesso di questo primo romanzo per Feltrinelli, Nessuno può fermarmi. Ciao Caterina, ben ritrovata qui all'Altra Europa. Buongiorno, ben ritrovati a voi. Allora, ci siamo incrociati pochi giorni fa al Festival del Giornalismo di Perugia, dove appunto mi hai parlato del tuo romanzo, che poi ho letto in frettissima e sono entrati in questa bellissima storia che non conoscevo, che tu hai trovato come? Io ho trovato per caso a Londra, perché è una storia molto poco conosciuta anche a Londra, la conoscono i vecchi della comunità italiana, perché sono stati molto colpiti ovviamente da questa vicenda, ma le nuove generazioni non la conoscono, come non la conoscono in Italia. Mm-hmm. Ce la vuoi riassumere in cosa appunto? Cosa incontrato? La storia è molto semplice. Io sono camminando per Londra in una chiesa la chiesa italiana di St. Peter a Clancroft, e l'ho visto una targa. In questa targa si parlava di un sacco di morti italiani, civili, questa era la cosa che mi aveva colpito, durante la guerra. E questa tragedia della Randora Star. La Randora Star era una nave di un transatlantico dove nel 40 erano stati caricati gli italiani internati, sì, perché con la dichiarazione di guerra di Mussolini all'Inghilterra gli italiani vengono arrestati, praticamente tutti maschi dai 16 ai 70 anni vengono arrestati in una notte, con scene, insomma un po' da Notte di Cristalli, negozi distrutti, ristoranti assaltati, insomma scene anche molto molto forti. Una parte di questi poi vanno a finire in campi di internamento, mentre una parte di questi italiani, sospettati di essere dei sobillatori, la chiamavano la quinta colonna all'epoca, no? E con la quinta colonna si identificavano quelle persone che dovevano essere le spie in attesa di ricevere un input per far qualcosa, per aiutare, spie in sonno per aiutare, sì, per aiutare Hitler. Queste persone vengono prese e messe su delle navi per essere allontanate dall'Inghilterra. Churchill disse, si chiamava proprio collar dell'otta, prendeteli per la collottola, acciuffateli. E questi vengono messi su delle navi, alcune navi partono e vanno nei paesi, diciamo, che del Commonwealth allora dell'Inghilterra, quindi in Australia, in Canada, eccetera. Questa nave parte carica di italiani e viene sfigurata proprio fuori dalle coste della Scozia. E c'erano 446 italiani che perdono la vita, ce n'erano più di 800, una parte si salva, una parte muore, e di questi la cosa che mi ha colpito in maniera incredibile, perché poi appunto era una storia che non ho mai sentita, io, esatto, non l'avevo mai sentita raccontare, poi ho chiesto, e in Italia anche così, ma nessuno l'ha mai sentita, si sente sempre, questa è una grande tragedia dell'immigrazione più che una tragedia di guerra, secondo me, no? Perché il più giovane morto su questa nave aveva 16 anni, e sono morti su questa nave degli ebrei che erano scappati a Londra come rifugiati politici, sono morti degli antifascisti che erano scappati anche loro per cercare, erano scappati dal fascismo e poi sono stati arrestati come sospetti fascisti, come sospetti spie, eccetera eccetera. Ergo, questa cosa mi ha talmente colpito che io ho cominciato a fare una mia ricerca personale, mi sono fatta tutta una mia idea di questa cosa qui, e io proprio ho detto, bisogna scrivere un romanzo su questo. Come mai un romanzo e non... Il romanzo, questa è una cosa interessante, perché il romanzo è una cosa dove tu ci metti il pathos, tu ci metti le emozioni. Io mi sono... il romanzo è costruito in maniera per cui non è un romanzo storico, è un romanzo che si basa su dei fatti storici, ma... quindi questa storia che io vi ho detto, ci sono tantissime altre cose che ovviamente in una cosa così non posso spiegare, ma sotto scorre la storia con la S maiuscola, sì, no? Diciamo. Sopra scorrono le storie di questi miei personaggi, che sono una vecchia signora inglese che sa di questa vicenda, e un ragazzo che è un giovane studente che ha una ventina d'anni, che trova in un cassetto una lettera. In questa lettera c'è scritto che il nonno è disperso, presunto annegato su questa nave. Lui aveva sempre sentito dire invece in casa che il nonno era morto in guerra. Allora dice, perché? Perché non me l'hanno detto? Perché è morto su questa nave? Perché come mai era finito su questa nave? Comincia a fare delle prime ricerche e pensa, il nonno forse era una spia, allora il nonno era un fascista, allora c'è qualcosa di non detto nella mia famiglia. E da lì nasce questa spirale con cui ho costruito il romanzo, perché sono due cose che volevo far capire. Uno, di portare proprio le persone dentro questa tragedia e capire perché se ne è parlato così poco, perché le stesse famiglie ne hanno parlato poco, le stesse famiglie ci avevano un non detto o qualcosa di imbarazzante riguardo a questa vicenda, e poi perché era l'assurdità della storia, cioè la storia è una cosa che si ripete, no? È una cosa, questi uomini sono finiti su questa nave per un malinteso della storia o perché sono stati, erano persone che vivevano tranquillamente a Little Italy, in questo quartiere di Londra che io ho anche ricostruito, è una cosa che anche quella si conosce poco, c'era una Little Italy anche a Londra, tutti pensano alla Little Italy americana, no? Al Capone, la grande migrazione, certo, a Ellis Island americana, invece quella a Londra è stata una grande meta di migrazione anche all'epoca. C'era una grossa comunità che era stata poi sconvolta da questo, dalla guerra, dal fascismo, e quindi queste cose si intrecciano così. E poi un'altra cosa che secondo me dava grandissimo pathos e che io volevo appunto raccontare come un romanzo, sì, è il senso di, cioè, in tutte le famiglie c'è un non detto, in tutte le famiglie ci sono delle cose che quando uno arriva a 20 anni e cerca la propria identità e cerca il proprio passato, la memoria, no? E così chi ci mette le mani va a scoprire delle cose, no? Sì, certo. E questo ragazzo scopre delle cose, questo ragazzo nella sua ricerca, poi instaura questo rapporto molto bello con la signora inglese, sa come mai suo nonno era su quella nave, c'è un mistero in questa famiglia, ovviamente, poi questa è tutta la mia fiction che mi sono costruita, infatti, no? Infatti. Ecco, è così che è nato, è così che lo voglio raccontare e comincio, guarda, il libro è uscito da poco, è uscito da una finestina di giorni, quindi siamo appena all'inizio della cosa, ma io comincio già a ricevere delle lettere di persone che mi dicono mi sono commosso, ma ho scoperto una cosa... pazzesca. Sì, così... insomma, scusa Caterina, ma abbiamo il tempo ormai è scaduto, però insomma c'è tutto nelle tue parole di questo libro, che è proprio, credo che la cosa iniziale che hai detto, cioè l'incontro della grande storia con le piccole storie, che poi siamo noi, no, protagonisti di questa storia unica. Caterina Soffici, Nessuno può fermarmi, grazie davvero per essere stata con noi, un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, l'appuntamento come sempre è a sabato prossimo. L'altra Europa.